Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata da Davide Paolini. Bene, oggi faremo un grande giro per l'Italia, faremo un vero e proprio tour gastronomico. E chi meglio dei gastronauti, dei tanti gastronauti sparsi per il territorio nazionale, potranno darci delle indicazioni, delle suggestioni su nuovi posti dove mangiare, dove rilassarsi, dove passare insomma una bellissima giornata estiva. E allora partiamo da questo giro, partiamo dal nord, partiamo dal Friuli Venezia Giulia, dove sicuramente ci sono degli angoli davvero fantastici, ma abbiamo con noi Stefano Cosma, gastronauta in Friuli. Buongiorno Stefano. Buongiorno Davide. Buongiorno Stefano, cosa hai scoperto ultimamente, oppure cosa vuoi riproporre di un posto sicuro dove indirizzare i nostri gastronauti in ascolto? Ma ho pensato a due locali. Uno si trova a Gradisca di Ronzo e l'altro a Grado proprio nella laguna gradese, che è anche un posto molto affascinante da scoprire. L'antica trattoria alle Viole, che si trova tra Gradisca e Gorizia, tra l'altro da qualche anno si è trasferito lì anche uno chef, Daniele Cortiula, che ha deciso così di cambiare un po' località in cui operare, e in questa antica trattoria alle Viole, che è aperta tutti i giorni, quindi ci si può, diciamo, deliziare delle varie ricette in tutti i giorni dell'anno, e in questo periodo estivo propone diverse cose, diverse delizie con prodotti del territorio, tipici dell'estate, con pesce che viene da Marano, dalla località della provincia di Udine, abbastanza vicino a Grado, ma da secoli in conflitto tra pescatori di uno e dell'altro posto. Sono in conflitto per le aree dove devono pescare, o sono in conflitto sulla qualità del pesce? Ma diciamo che il conflitto nasce secoli fa, quando pare che i pescatori maranesi, volendo trovare giovani fanciulle che lì a Marano mancavano, fecero una specie di ratto delle gradesi. Allora i gradesi non gliel'hanno mai perdonato. Poi molto probabilmente ci sono anche questioni di aree di pesca, però questa è un po' la leggenda che si narra. Poi in effetti sono stati per secoli sotto la Repubblica di Venezia entrambi, per cui non c'erano grandi contrasti. Ma quindi abbiamo un secondo grande ratto a Gradisca, sì, che sì. Mi ricorda sempre un film di Fellini, ma non c'entra niente col cibo. Bene, andiamo avanti Stefano, raccontami anche questo secondo posto. Ecco, quindi questo posto di Gradisca di Ronzo, dicevo appunto, vini del territorio, delle aziende locali, quindi del Coglio, dell'Isonzo, piatti particolari che si adattano bene alla stagione calda, quindi tortino di alici con caponata, su una fonduta con pomodoro e basilico, un bel piatto anche vegetariano con fiori di zucca, e un bel parco ombroso dove si può portare i bambini e dove possono scorrazzare mentre i genitori si sollazzano con il cibo. E l'altro posticino che citavo all'inizio è a Portobuso. Portobuso è un'isoletta che si può raggiungere quindi solamente via mare. Se uno ha la propria barca, lo fa con la propria barca, altrimenti ci sono collegamenti sia da Marano, che citavamo prima, sia da Aquileia, sia da Grado. Portobuso appartiene storicamente al comune di Grado, e c'è una famiglia che ormai da diversi anni gestisce un locale che si chiama Ai Ciodi, sull'isoletta che porta il nome di Anfora. È aperto anche questo d'estate, ovviamente tutti i giorni, e i piatti sono quelli tipici della laguna, quindi dalle seppioline fritte, il filetto di cefalo, il rombo ai ferri, il boreto, che è un antichissimo piatto gradese, che al di là del nome non è proprio un brodetto, ma è fatto con diversi tipi di pesce cucinati nell'aceto, senza l'uso del pomodoro, perché si suppone sia nato ben prima della scoperta delle Americhe. E lì un'isoletta che si raggiunge in mezz'ora circa da Grado, dove si può anche dormire, quindi un posto di vero relax, e che permette di scoprire la laguna di Grado, che è una vera meraviglia. Bene, ci hai dato anche un posto turistico sicuramente dove andare e dove soggiornare. Ecco, questo è molto importante, perché così si può mangiare la sera ma si può anche restare. Ma già queste tue due presentazioni mi fanno venire in mente un qualcosa che ricorda Mina. Beh, allora, sulle ali di ma che bontà, Amedeo Palazzi from Mantova, ma un girovago, e quindi anche a te, diamo qualche suggestione bellissima ai nostri radioascoltatori. Allora, io vi do tre ristoranti, uno a Mantova, uno a Brescia e uno a Cremona. Partiamo da Mantova. Parliamo dei 100 Rampini in piazza, quindi il classico ristorante della piazza dove ci sono tanti turisti, ma quello dove ci sono soprattutto tanti cittadini. Il ristorante ha tantissime anni di storia, la stessa famiglia che lo gestisce da ormai più di 30 anni, e quindi la certezza è la cucina di sicuro, il servizio e anche mangiare sotto un fresco porticato di un palazzo del 1200. Possiamo anche raccontare qualche cosa che mangerei io, che vi propongo, e sono il piatto, secondo me, fresco dell'estate, dei 100 Rampini, che sono le tagliatelline verdi con piselli e menta, che sono sempre molto piacevoli, sono veramente una bella soluzione. Bene, un bel profumo. Dopo, anche. Sì, veramente una bella idea. Dopodiché io mi sposterei invece sul lago di Garda e andrei a Manerba del Garda, locanda da Vittorio, della famiglia Veggio, che tu conosci bene, dove praticamente si può stare veramente al fresco, anche d'estate, mangiare fuori, mangiare anche in piscina, mangiare dove si vuole, con il classico posto per professionisti, come dice un nostro comune amico, dove tutto è perfetto, la cucina parte da prodotti molto freschi, siano di mare che sia di terra. E di sicuro non mancano le bollicine, dato che Marco Veggio è professore in bollicine. E anche qui, se dovessi parlare di un piatto, probabilmente parlerei di una tartare di Barbina, che è una razza autoctona della zona, o potremmo anche mangiare un raviolone col bagos, che non guasta anche d'estate. Ecco, anche qui si può dormire, quindi si può essere in un posto, diciamo, importante anche dal punto di vista paesaggistico, si può anche dormire. Il gastronauta. Eccoci in viaggio, abbiamo sentito in Friuli due posti davvero intriganti. A Mantova, chi va a visitare questa splendida città, appunto, ha un posto grande, un posto di osservazione sotto il porticato di una delle piazze principali. E poi ora con il nostro amico Palazzi, altro gastronauta di lunga gittata, lunga data, andiamo a Cremona, vero Palazzi? Esatto, andiamo in un posto che tu conosci particolarmente bene, che è il Caffè La Crepa, dove secondo me d'estate, e visto che è un locale dove si può stare anche all'aperto, anche lì sotto il porticato, ci si può veramente divertire. E la famiglia Malinverno, con anche Federico, l'ultima leva della famiglia, secondo me merita assolutamente di essere ricordata anche quest'estate, sia per la grande cucina che per la grande cantina che per i grandi gelati, dolci, ed è un'esperienza perfetta su cui io potrei anche prendere i piatti, ma di fronte a te faccio fatica perché riconosci sicuramente quanto me. Ma io direi che chi vuole mangiare una straordinaria cucina del territorio alla Crepa non sbaglia mai. E poi direi anche che mangia in una delle piazze più belle d'Italia, specialmente lasciata un po' andare, però devo dire che è una bellezza unica. Mangiare su, diciamo, fuori, appunto, all'aperto, è un'esperienza davvero molto molto molto interessante. Grazie Amedeo di questi tre tatte dove ci hai portato. Ma a me mi viene sempre l'acquolina in bocca, me la fanno venire. Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Caro Helmut Failoni, ora andiamo da un amico a Bologna, ma un amico girovago, molto, come posso dire, molto critico molte volte, ma anche molto, molto entusiasta. Buongiorno Helmut Failoni. Buongiorno. Helmut. Ciao Davide. Dove porti i nostri gastronauti? Guarda, io li porterei in un posto che mi ha, passami il termine, sconvolto, nel senso positivo, a Calenzano, vicino a Firenze, un ristorante che ha aperto da poco, si chiama Tre Lune, ed è gestito da tre formidabili chef, tutti under 30, e qui si potrebbe aprire anche una breve parentesi sulla nouvelle vague di giovani chef che stanno lavorando benissimo in Toscana. Se non erro, sono tutto di scuola francese questi tre. Esatto, sì. Matteo Lorenzini, 29 anni, Ilaria Di Marzio, 29, Tommaso Verni, 27. Ecco, posso dire che per me è stata la scoperta dell'anno e sicuramente il miglior pranzo degli ultimi tempi. Cosa ti ha colpito dei piatti che hai mangiato? Ma secondo me quello che mi ha colpito di più è che nella loro cucina c'è una veramente rara conoscenza del prodotto, dico rara perché la conoscenza è anche dal punto di vista culturale, non solo dei sapori. Meritano ammirazione perché non vogliono fare più di 24 coperti, anche perché, come dire, i loro piatti sono di una complessità estrema dal punto di vista della realizzazione, cioè con piatti di questo genere, e ora arrivo a dirvene qualcuno, è impossibile bleffare, cioè non è che prendi il tonno da un lo tagli e gli metti uno zenzero accanto e fai il modaiolo. Mi viene in mente il loro omaggio a Alain Ducasse, ricordo che loro hanno lavorato da Luigi XV, poi hanno lavorato da Robuchon, da Arnolfo, da Pino Cutaia. Ecco, questo omaggio a Ducasse, così si chiama questo piatto, è una delle pietanze di verdure più buone che io abbia mai mangiato. Scusa l'entusiasmo, ma veramente sono rimasto senza parole. Quindi, verdure di stagione, cotte come un risotto, bagnate in cottura con un brodo di pollo e finite con un'emulsione che fanno dallo stesso succo di cottura con del balsamico, dello xeres e del tartufo nero. Piatti con una pulizia di sapore che veramente lascia interdetti. Vi ricordo anche una polpa di granchio servita proprio dentro alla carapace del granchio con verza, mela verde, lenticchia, lucelletta, e qui c'è un omaggio al territorio. Queste lenticchie cotte nel jus di astice, grani di senape, spuma di limone. Ecco, il risultato finale: pulizia, equilibrio, sapori netti, ogni materia prima non perde la propria personalità, il proprio sapore all'interno della cottura. Beh, sento un entusiasmo, quindi tu non sei facile agli entusiasmi, devo dire che veramente ti ha colpito nel cuore questa cucina. Sì, assolutamente, consiglio a tutti di andare, anche perché 55 menù degustazione, quindi chiudono giusto 3-4 giorni tipo Ferragosto, però se no sono sempre aperti. Bene, si mangia anche all'aperto, bellissimo posto. Manderemo prima e dopo di questa data i nostri gastronauti. Grazie Helmut. Di questa segnalazione molto entusiastica che fa venire veramente l'acquolina in bocca. Ma ora andiamo in Calabria, sicuramente in Calabria quanti dei nostri radioascoltatori saranno durante l'estate in Calabria, in questa splendida terra, forse un po', come posso dire, poco pubblicizzata. Si parla sempre della Sicilia, si parla della Puglia, in questo momento soprattutto, ma la Calabria, vero Gianfranco Manfredi, altro gastronauta di lungo corso, è una terra da visitare? Ma certo, da visitare e da scoprire, perché è una delle poche regioni d'Italia che ancora in gran parte deve essere scoperta, con le modalità dei gastronauti che viaggiano per cercare, no? E senza seguire degli itinerari prefissati da altri. E le proposte ghiotte sono due dalla Calabria, una di due fasce diverse, due tipologie completamente diverse. In questa terra di contrasti, d'altra parte, non poteva che essere così. Uno è un ristorante che davvero è una grande sorpresa, raffinatissima, è il ristorante Dattilo di Roberto Ceraudo nel cuore del vecchio Marchesato, sembra uno chateau provenzale paracadutato nell'estremo sud. E in questo agriturismo Roberto Ceraudo, che è un appassionato produttore di vini e di extravergini, aggiungerei, per averle gustate più volte, di arance, mandarini, olio, ortaggi, credo è un'azienda biologica eccezionale. E tra l'altro il cuore aziendale è una casa baronale del 600 con cappella gentilizia, che lui ha restaurato con grande rispetto e con grande garbo, senza diciamo stravolgere nulla, e il cuore goloso di questo chateau è il ristorante, è affidato a quattro mani femminili, cioè la figlia di Roberto, Caterina Ceraudo, e Margherita Masino, hanno 50 anni in due, quindi mi ricollego a quello che diceva l'amico da Bologna poco fa, su queste nuove generazioni che sono però diciamo vengono dalla prestigiosa consulenza della scuola di Nico Romito, lo chef pluristellato del ristorante Reale di Castel di Sangro in Abruzzo, e hanno appunto digerito le sue lezioni riadattandole in salsa calabrese, nel senso che c'è un fortissimo legame con il territorio. In questo ristorante molto raffinato sfilano piatti ambiziosi, ricercati, però tutti con gusto e sapori nitidi legati diciamo al territorio che li circonda. E quindi ci sono assaggi. Io consiglio andare in questo locale con la macchina e avere un bel montacarichi, perché bisogna tornare indietro anche con questi prodotti che abbiamo citato, perché veramente ne valgono la pena. Provviste sia per la cantina che per la dispensa, certo, tra l'altro. Certo. E volevo solo citare due piatti che secondo me sono come in qualche modo la bandiera e fanno capire di che stiamo parlando. Uno è un assaggino, insomma, fra i mille assaggini dell'antipasto, sono superlative alicette fritte con panatura di pecorino e basilico, un piatto che io confesso, dopo aver assaggiato tra gli antipasti, poi ho preteso come secondo, una seconda dose, e l'altro è uno spaghetto di borragine con ricotta salata, semplicissimo. Bene, la borragine è nell'impasto dello spaghetto e poi viene semplicemente dammi la seconda destinazione. La seconda destinazione invece ha un taglio più popolare e in qualche modo anche diciamo più alla portata di tasche diciamo meno fornite, perché mentre per il ristorante di cui ho parlato prima il conto medio è sui 55 euro, vini esclusi, qui stiamo parlando invece di conti molto più popolari, sono 30 euro bevande escluse, e parlo di uno dei borghi più belli del sud, Altomonte, è un borgo, è un pezzo di 300 toscano nato in Calabria perché per una grande famiglia aristocratica era feudataria di quella zona, quindi ci sono opere d'arte, ci sono beni architettonici e ambientali straordinari, e poi c'è questa cucina fantastica, quella della famiglia Barbieri, che fa parte, come dire, è parte importante del fenomeno Altomonte, del rilancio di questo paese. È una famiglia che è una specie di istituzione enofood affiatatissima e che da tre generazioni è impegnata questo locale. E qui la cucina invece è diciamo non anoressica, decisamente non anoressica. Io ricordo i porcini mollicati, che sono il piatto clou della proposta autunnale di questo ristorante, ma poi fanno piatti fantastici come le lagane e cece, gli gnocchetti alla boscaiola, il cosciotto di agnellone al ginepro, che tra l'altro è piatto del Buon Ricordo, perché questo ristorante fa parte del circuito del Buon Ricordo. Una fantastica cantina legata al territorio, ma anche con divagazioni nazionali anche oltre Alpe. Purtroppo ti devo interrompere perché devo passare la linea alla regia, però aggiungo io anche qui, andate con una macchina, con un'auto, e caricate, perché anche i prodotti di questa famiglia, di questo ristorante, sono straordinari. Confermalo, Manfredi, che non sia un altro. Hanno una dispensa meravigliosa dove si possono fare acquisti, tra l'altro anche direttamente, perché gran parte dei prodotti sono loro. Sono homemade. il gastronauta. Altra terra da non dimenticare in Basilicata, appunto la Basilicata in questo paese, perché io la consiglio molto per un viaggio, magari un lungo viaggio estivo, per andarla a visitare. È una terra veramente splendida che offre di tutto, dalla montagna al mare, alla collina, insomma c'è di tutto anche dal punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto di prodotti e di cibo. Diciamo che ci sono alcuni piatti veramente molto interessanti che ormai sono anche in tanti ristoranti sparsi per l'Italia. Ma noi abbiamo una guida che si chiama Michele Brucoli. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno Davide, benvenuto in Basilicata. Allora, ci dai due suggestioni? Sì, diciamo che noi abbiamo una intensa attività quest'anno sulla provincia di Matera, che Matera è candidata a capitale europea della cultura per il 2019. E si riflette con una serie di attività. Abbiamo, per esempio, nell'entroterra a Pisticci abbiamo uno storico festival della Lucania Film Festival, un festival cinematografico dal 10 al 13 agosto, che propone quest'anno una rassegna gastronomica con uno chef, Luigi Dio Taiuti, del Tiramisù di Washington, che è un lucano che fa parte del corpo diplomatico degli chef della Casa Bianca, che proietta questo suo documentario The Beauty of Basilicata, quindi un tocco di internazionalità. E quindi a Pisticci abbiamo poi un nostro ristorante, L'Incontro, recensito nella guida, che ha differenziato. Beniamino Laurenza ha cercato di combattere la crisi introducendo la pizza in trattoria, e nella trattoria quindi propone queste 13 pizze ambientate, cioè ha trasformato i piatti tipici locali, i primi locali, in pizza. Bene, molto interessante, perché d'estate si mangia molto bene la pizza. Dammi un'altra suggestione, Michele. Io direi sempre provincia di Matera, Policoro, abbiamo un altro evento ancora musicale, Matera Wine Music Fest, in cui il consorzio Matera Doc propone ogni giovedì per tutto luglio e soprattutto agosto, un produttore della Matera Doc propone i vini, la degustazione dei vini abbinati alla musica, e quindi dal 5 al 9 agosto si conclude con Calici Blues in occasione di questa Blues in Town a Policoro, concerti, seminari, workshop musicali gratuiti abbinati a un percorso di degustazioni. Proponiamo in particolare le novità della Matera Doc. Abbiamo quest'anno questo Aglianico, fuori dell'area Doc Aglianico, ma nella Matera Doc, vinificato anche in bianco. E abbiamo anche un primitivo in purezza, Sangiovese e Shiraz, che sono le novità di quest'anno, oltre a questo Aglianico biologico. Bene, grazie Michele Brucoli. Ma dalla splendida Basilicata andiamo alla meravigliosa Sicilia. Ebbene, abbiamo qua una gastronauta donna. Buongiorno Marina Carrera. Buongiorno Marina. Buongiorno a tutti voi. Grande conoscitrice di ristoranti del suo territorio. Marina, cosa ci proponi? Quali le novità della tua terra per questa estate? Allora, le novità della mia terra partono innanzitutto dalle isole, e dalle Eolie in particolare, dall'isola di Salina, dove Martina Caruso, a soli 24 anni, gioca ormai praticamente nella Champions League del gusto da almeno due stagioni. E grande merito di questo va anche e soprattutto al fratello e ai genitori che preferiscono definirsi come una grande famiglia Signum, includendo così tutto l'intero staff della struttura. Beh, devo dire che Signum, io amo molto Salina, conosco il Signum, è sicuramente un albergo splendido con una grande ospitalità, una grande famiglia, è vero? Fantastico, fantastico, sì, loro ci sanno veramente fare come pochi, ecco, riescono a mettersi in gioco continuamente e riescono comunque a rapportarsi appunto con il cliente, a farlo sentire proprio a proprio agio, ecco. E sono tante le novità, lei insomma da un punto di vista culinario per quest'anno propone dei piatti che comunque sono innovativi, che non si distaccano dalle radici, ecco, del territorio, e per citarne alcuni, non lo so, un'insalatina di baccalà con pomodori crudi e rucola piccante, proseguendo con un pane alici, che tradotto in siciliano sarebbe pane con le alici, che consiste in un piccolo fish burger di mare. Ah, interessante. Infatti, parecchio. Poi sorprendente l'equilibrio dei sapori della lasagnetta fredda con rana pescatrice in salsa di basilico e granita di pomodoro, molto molto buona, e l'incisivo tonno in doppia panatura al profumo di lavanda e caponata leggera. Eccellente ovviamente la carta dei vini, perché cioè, è una, secondo me, a parer mio, delle migliori sulla regione, perché vanta almeno 800 etichette, 80 di solo champagne. Bene, quindi bollicine al mare. Bene, da Salina dove ci porti poi? Da Salina poi passiamo a Modica, perché c'è una grandissima novità. Accursio Caparo ha deciso praticamente di mettersi in proprio. Come? Di mettersi in proprio e di dar vita ad una creatura tutta sua assieme alla alla moglie Oriana. E hanno aperto un locale che praticamente assomiglia per dimensione e genere ad una piccola trattoria con cucina tipica, così come ce n'erano alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, insomma, in quel di Modica. E il ristorante porta il nome di Accursio, appunto. E ovviamente ogni singolo arredo di questo ex studio notarile è stato praticamente pensato e studiato appunto per ricreare quello stile, lo stile delle vecchie case modicane. Bene. Eleganti ma sobrie, insomma, allo stesso tempo. Quindi è anche un posto da vedere. Sì, sì, assolutamente. E fra l'altro si trova proprio sulla via centrale, sulla via principale di Modica, di fronte al Palazzo della Cultura. Bene. E dopodiché ovviamente, insomma, c'è da dire che Accursio non manca ovviamente del suo estro creativo al quale siamo abituati, rimanendo però saldamente ancorato, insomma, alla materia prima fortemente identitaria del luogo. Divertentissimo, secondo me, a parer mio, è il cibo di strada, che è un mix di street food siciliani, alcuni dei quali vengono serviti, soprattutto i fritti, all'interno di un mini cestello da friggitrice. Bene, Marina, ti devo interrompere perché no, devo passare in Puglia, devo correre in Puglia, comunque da Accursio quindi a Modica, abbiamo sentito e sono contento che sia tornato in pista. Grazie a Marina Carrera, ora corro in Puglia perché il tempo stringe, da Antonella Millarte. Buongiorno Antonella. Buongiorno Davide. Bene, ci dai delle suggestioni al volo perché il tempo stringe veramente. Ma la mia ultima suggestione è stata fantastica, è proprio ad Otranto, nel cuore del Salento, vicinissima al castello, e ho scoperto per caso con altri colleghi giornalisti un locale delizioso dove tre donne stanno portando avanti un'avventura incredibile, si chiama L'Altro Baffo, anche se sono tre donne. Beh, insomma, è veramente incredibile, da questo giro dell'Italia abbiamo scoperto delle età diciamo di chef molto giovani e soprattutto donne. Bene, raccontaci allora. Allora c'è Cristina Conte con la mamma Pina e la sorella Carmen, che hanno deciso di reinterpretare le ricette fiorentine, cioè gli ingredienti sono sempre quelli, ma la modifica che è stata portata è, secondo me, davvero deliziosissima, cioè io erano anni che non assaggiavo una carbonara ai ricci di mare fatta così bene. Certo. Quindi carbonara con i ricci di mare, ho capito in bene. In realtà sì, sono i famosi celebri spaghetti di Benedetto Cavaliere, spaghettoni in realtà fatti con la polpa dei ricci di mare, ma con un garbo, un tocco, un velluto, fluidi, proprio sembra una carbonara, non c'è l'uovo, ma la cremosità del piatto è tale che potrebbe avere la cremosità della carbonara. Io l'ho presa con curiosità pensando ci fosse l'uovo e poi ho avuto questa bella sorpresa, appunto la fluidità del piatto, ma poi abbiamo proseguito con il pesce spada, che qui in Puglia si pesca, insomma, abitualmente, però grigliato e con una salsa tonnata alle mandorle e con insalata aromatica. Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Bene, ti ho interrotto perché era, appunto, non meritava altro. Vai avanti Antonella. Sì, e poi il pasticciotto, ecco, lì mi aspettavo il solito dolcino con la pasta frolla e con dentro appunto la marmellata, la marena, invece no, era scomposto, era in una coppa, quasi come un gelato, con la crema al limone, la frutta, le olive, ovviamente deamarizzate, e le erbe aromatiche. Devo dire che a quel punto ho detto I love you, perché insomma, veramente l'ufficio supremo. Mi vuoi ripetere il nome del ristorante e il luogo? L'Altro Baffo ad Otranto. Ah, proprio, quindi Otranto città, insomma. E nel centro storico. Dove c'è quella bellissima cattedrale, insomma. Sì, superata la cattedrale verso il castello e poi abbiamo avuto l'avventura straordinaria di poter appunto cenare sul tetto, un panorama incredibile. Quindi si cena sul tetto. Guarda, ho un minuto, mi dai un secondo ristorante, un nome e un luogo? Allora, in questo caso mi piace parlarti di un luogo molto speciale che è l'agriturismo Marina Piccola, è aperto solo l'estate perché non ha voluto creare, diciamo, sovrastrutture, è ad Avetrana, io lo amo perché è il luogo dove vado quando voglio mangiare quello che magari cucinava mia nonna, perché lo stile di cucina è quella, c'è un orto di 150 ettari dove attingono ogni giorno, è un agriturismo vero, dove si frigge con l'extravergine di oliva, il sugo dei pomodori appena colti, è un posto secondo me davvero delizioso e devo dire che la cuoca, la signora Preziosa, merita. Bene, bene, grazie alla signora Preziosa, perché dalla regia tutti, guarda, sono a bocca aperta a sentire tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora. Il gastronauta. Continuiamo questo giro succulento fatto di bontà, di bontà davvero incredibile. Abbiamo sentito appunto un po' quasi tutte le regioni, ma ora andiamo con due personaggi, due che direi gastronauti un po' girovaghi, che non è che hanno un'area precisa come abbiamo sentito fino ad ora. Buongiorno a Severino Salvemini. Buongiorno Davide. Allora Severino, cosa ci segnali per l'estate? Hai qualche segnalazione particolare così da dare ai nostri gastronauti? Sì, ho una segnalazione in Campania per persone che girano sulle isole e invece per gli stanziali una segnalazione in città, in Lombardia, a Milano. Bene, andiamo allora. Allora, cominciamo con la Campania. La segnalazione è una cosa piuttosto originale perché stiamo parlando di un modo per cuocere gli alimenti attraverso la fumarola. Cioè la fumarola sono quando si cuociono pesce, carne, verdura o anche dolci sotto la sabbia, che ad Ischia in particolare, stiamo parlando di questa isola, dato che c'è una proprietà vulcanica locale, la sabbia raggiunge anche i 110 gradi e qui cuocere con la fumarola vuol dire che si mettono le ricette dentro una teglia e poi la teglia la si mette dentro una federa e la si lascia sotto la sabbia. Il ristorante si chiama Hotel Ferdinando e ha le cose classiche della zona, e quindi i classici paccheri con cozze, provola, lo spaghetti con cozze, ma le cose che vanno assolutamente assaggiate sono pesci, pollo o cipolle o anche crostate con fiche e peri sotto la fumarola. E poi in particolare una ricetta che è una cosa molto gustosa, lo sciortino di polpo, cioè che è il brodo rilasciato dal polpo buttato tutto intero nella teglia sotto la fumarola, che viene servito in un bicchierino con superficie di pepe nero, che è una cosa di sapore molto antico. Bene, a Milano hai detto, speriamo che sia aperto in agosto questo, tutto Milano, agosto. A Milano aperto, stiamo in zona nord, ad Afori, per chi ama il vintage e il clima un po' aritroso negli angoli meneghini autentici, si chiama l'Osteria del Bigliardo, che è la nuova ridenominazione di una vecchissima cooperativa dal nome simbolico, Cooperativa Sempre Uniti. Chi ha voglia di entrare un po' in queste atmosfere da Trani a Gogò degli anni passati, vede tre biliardi sotto queste classiche lampade verdone e dentro, contrariamente a quello che uno si potrebbe immaginare, c'è un patron di origine albanese ma di raffinatissima erudizione slow food che fa piatti molto molto ricercati. Ecco, ma il biliardo è da stecca o da boccette? È un biliardo da stecca, certo che chi non sa fare la stecca poi a un certo punto può giocare con boccette. Va bene, ma se sono le buche o non ci sono le buche, questo è da vedere. Bene, io ti ringrazio, grazie a queste due segnalazioni, in particolare questa di Ischia, perché sicuramente è un'isola battuta durante l'estate. Ma ora andiamo da un altro personaggio che girovago, da Savino Vurchio. Buongiorno Savino. Buongiorno Davide, buongiorno allora, a tutti gli ascoltatori. Dacci un po' di suggestioni. Allora, io ho pensato a tre locali, uno completamente diverso dall'altro. Il primo è in Piemonte, nella Val Borbera, in precisione a Borghetto Borbera, e si chiama Ristorante Il Fiorire. è sito in un ambiente bucolico di una bellezza straordinaria. C'è uno chef strepitoso che si chiama Massimo Martina, che fa una ricerca di prodotti del territorio veramente incredibile, ma si mangia ovviamente cucina del territorio. Qui ci troviamo a cavallo praticamente tra il Piemonte e la Liguria, quindi c'è una bellissima commistione tra le due culture. In più è questo paesaggio veramente stupendo in questa mezzanina che regala veramente incanto a dismisura. Invece un altro ristorante che mi piace segnalare, che è completamente diverso e si trova in campagna, è il Buco di Sorrento. Il Buco di Sorrento del patron Peppe Aversa, un ristorante con una stella Michelin, ma con una cucina che è fatta esclusivamente di materia prima, quindi la stella Michelin a Peppe è stata data per la bellezza del ristorante di sicuro, ma soprattutto per la sua capacità di valorizzare la materia prima, dove la creatività è al servizio della materia prima e non il contrario. Poi volevo fare ancora una piccola segnalazione, se me lo permetti, certo. Davide, che è un locale un pochino particolare per chi decide di passare le vacanze d'agosto nelle città d'arte. Ci troviamo a Ferrara, in via Carlo Maier, che è una proprio delle vie principali del centro storico, e questo locale si chiama La Cambusa. È un locale veramente che io reputo straordinario, perché sembra veramente una piccola cambusa di una nave. Io tutte le volte che vado lì mi sembra di vivere in un luogo un po' felliniano. Dico sempre che se ci fosse stato ancora Federico Fellini in quel locale ci avrebbe fatto un film, perché c'è una varietà di personaggi, da giovani ad anziani, veramente incredibile. La cucina ovviamente è un'espressione molto, molto semplice, quindi poche cose fatte bene, però una bellissima carta dei vini e anche una carta delle birre veramente interessante. Bene, io ti ringrazio, ci hai dato così esaurientemente il tutto, e io, visto che magari ci sono state alcune regioni che non sono state toccate, vorrei dare delle suggestioni anch'io. Allora vorrei partire dal Friuli. Io credo che la Subida a Cormos è un posto sicuramente, per chi capita diciamo in quel territorio quasi al confine con la Slovenia, ne valga veramente la pena, perché non solo c'è un'accoglienza di grande livello, ma c'è una cucina territoriale molto interessante, soprattutto anche una conoscenza dei vini di quel territorio, che appunto da oggi sta dando dei grandissimi vini bianchi, quindi la Subida a Cormos. Poi ho sentito che la Liguria è stata un po' trascurata, nel senso che non ho chiesto ad una persona in particolare di parlarmi della Liguria, ma io voglio indicare Rocco e i suoi fratelli a Rapallo. Ecco, non è un nome di un film, è anche un nome di un film, ma lì veramente c'è Rocco che ha dei fratelli, quindi ecco perché il nome. A Noli, sempre in Liguria, segnalo il Vescovado, altro locale veramente di interesse, dove c'è una vista sul mare, sul golfo, davvero interessante, insomma, da andare. E poi anche dentro la città di La Spezia c'è un posto che non vorrei dimenticare, perché ne vale la pena. Non è sul mare, però è nel centro storico, ma La Posta è un ristorante di sicuro affidamento. E poi è stata dimenticata forse anche la Sardegna, purtroppo, e su questo vorrei fare, come posso dire, una digressione. Ci ha lasciato tempo fa un personaggio straordinario, che era quella che caratterizzava la cucina in Sardegna, ed era, si chiamava Rita, dell'hotel Gallura. Purtroppo ci ha lasciato, e devo dire che lascia anche un vuoto incredibile nella ristorazione di quell'isola, ma sicuramente ci sono tanti, tanti nuovi locali che stanno nascendo, che sono nati, ad esempio l'Approdo a Palau è un ristorante sicuramente dove andare. E poi non abbiamo ricordato la Romagna, sicuramente la Romagna è una terra che è molto, come posso dire, battuta d'estate, allora potrei parlare di Azzurra a Riccione, potrei parlare di Guido a Rimini e poi potrei anche scendere, andare verso Fano e qui vorrei citare la Lanterna di Fano, altro posto di sicuro affidamento. E poi forse me ne sono dimenticati veramente tanti, però credo che, cari gastronauti, ne abbiate da segnare nel vostro tacchino. Ecco, il problema rimangono sempre le città, perché dare dei ristoranti nelle città è sempre pericoloso perché non si sa mai quando chiudono e quando poi riaprono, quindi penso di non poter dare questo per non avere la sicurezza e poi per farvi andare magari in qualche posto e trovare poi magari la chiusura. E poi ci sono i grandi ristoranti, che dire, cioè possiamo andare in Sicilia a Licata alla Madia, possiamo andare al Duomo di Ragusa, quindi grandissimi ristoranti. Poi possiamo andare sulla Riviera Adriatica, diciamo spingendosi verso le Marche, oltre alla Romagna. Bene, Senigallia devo dire che veramente ha due ristoranti straordinari, la Madonnina del Pescatore e poi Uliassi. Ma scendendo ancora, sempre di Moreno Cedroni a Porto Novo c'è il Clandestino. Ecco, chi volesse andare al Clandestino sicuramente trova un posto Sui Generis, dove ogni anno si cambia anche il tema, basato sempre sul sushi, ma il sushi all'italiana molto molto particolare, ed è un posto anche splendido dove andare la sera. E poi ancora a Viareggio, sicuramente romano, a Forte dei Marmi Lorenzo, insomma potrei continuare ancora per ore e ore, a Marina di Pietrasanta, a Pietrasanta, anche se non è sul mare, sicuramente alla Enoteca Marcucci, che è diventato un po' un posto clou di tutta quel territorio. Ma credo di avervi dato abbastanza suggestione. Io vorrei chiudere, non salutandovi, dicendovi come al solito alla prossima, ma con quelle note che ci hanno accompagnato, perché questo era il tema della trasmissione. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Assaggiare un gocciottino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?